chi è? Boia. Raffaello Pipistrello. Allora, ciao Gianni. Ciao Antonio, allora. Come andiamo? Sì, ci andiamo bene, dai. Meglio così, sono contento. Per andare peggio, Antonio, meglio così. Ah, quello già è vero, per andare peggio meglio così, sì. Uia, non so più cosa devono combinare, guarda. Da dicembre, ogni casino, cazzo. Adesso vediamo. Attenzione, Gargamella. Avanti, avanti, Luca. Cerco Pedivella, Gargamella chiama Pedivella, avanti. Dai, siamo nannini. Ciao, Pompucu. Ciao, Luca. Beh, Lucrezia. Andiamo, cata. Cosa c'è a dicembre? Qualcosa di buono? Natale. Per carità, beh, dove? Beh, da gaggata. A me lo ti fanno i regali, non sei contento? Proprio quello, aspetta, i regali, ma no, ma anche no. E dai, che ci fanno tutto l'anno, non solo a, se non solo a Natale. Guarda che c'è gente che c'ha le Ferrari a posto di tirarlo fuori tutti i giorni, tira fuori solo l'America, perché non c'ha soldi per pagare la benzina. Vero, è vero. E regali, ma se li devi fare tutto l'anno devi avere un bel di dinammi, Luca. Ti è sparito, Luca. No, magari a casa della ragazza stanno parlando. Ah, boh, senz'altro sì, magari così. Un poco. Avanti. Ciao Gianni, ciao Alessio. E ciao Luca, se in ascolto. Però abbiamo cominciato a capire. Ciao Natalino. Caffè, non è Ali Marca, è così che si chiama. Cappa, grazie. La crema del caffè è praticamente espresso. Ecco. Allora adesso lei. Buonasera comunque. Dico subito. Buonasera. Parlate che sto guardando una cosa. Cosa stai guardando? Qualche ragazza? Subito, non ci deve perdere tempo perché noi abbiamo. Allora, Gianni il caldo. No, che mi hanno, siccome sono in un'app dove si canta e mi hanno mandato i regali, capito? Cosa dite? Cos'è il TikTok? Starmaker. Ah, ogni tanto c'è un coso diverso, ho capito. Poco fa ne ho visto uno di coso. C'era una ragazza che si è messa in ginocchio come se fosse cagando in terra per farsi vedere le cucce, di tutto si vede di più adesso Facebook, chi so, si fa vedere le tette, chi fa vedere il culo, chi le gambe, tutti cercano i soldi, sono me. Io non ne ho mai visto queste cose, sei tu che vai a cercarle, Ah, sono di quei siti, lo sai, amicizie, poi c'è quello lì, adesso non si è inventato quello di innamorarsi, fa un culo, cazzo, sono tutti uguali, so, sempre stessa cagata, so. Ma in Malaysia ci sono i maschietti che le fanno a pezzi, le fanno a quelle ragazze. Natali, riprendi. Beh, mi sto mettendo la medicina. Io con cuomane. Sta prendendo la medicina, Natalino. Stai prendendo la medicina in vena, ti stai prendendo, drogato. E vai con cuomane, drogato sei tu, sì. Hai capito? Ho ti telefono stanotte alle 2. Non l'hai presa questa medicina, dai, dimmi, non l'hai presa. Dai, qua buona. Lì è una cosa, mia Pasqua l'hai comprata, il chioschetto. No, a Santa Maria di Pisa l'ho presa. Beh, com'è? Subito ti è salita o dopo? A limite è salita dopo perché deve una volta che la prende da Santa Maria di Pisa poi deve di nuovo scendere lui. Andiamo, cata. Davvero, mica, davvero. Che non sento il CV dubbio che io mamma mia come sto io contadino, anche me sta salendo. Davvero? Sta cercando una massaggiatrice brava per il mal di schiena. Vieni che c'ho un mosso di ruccio qua, te li faccio io i massaggi. Ho detto una massaggiatrice, non un massaggiatore. Domanda mia sorella, c'è cioè i baffi. No! Quella pelosa? Allora, non vuole nessuno che tu c'è cioè i baffi pure lì. Con i baffi. Attento, Claudio! Ehi, cuoma, eh! Non vuole nessuno, cazzo, c'ha 20 anni che non si raggia, non si respira, c'è la foresta sotto la patata. Cosa va, la chiude d'acciaio? A te ti mando la figlia di quello del far. Mamma mia, ci vede Antonio Benilli, guai, la ragazza Giulia. Voglio la voce di Itria, tutta bella... Ma perché stai mescando sto cazzo di torcio? C'era la voce di Itria, tutta... Perché... Ma se gli è mandata a vedere, va via rimultato, quanto è nonno, che... Appena c'è stata la possibilità... A me c'era uno che mi diceva... Carissimo... Immediatamente... Antonio Benito, che ho fatto che la sentiva, diventava pazzo, io devo andare a conoscerla, che c'è una scemona, che... Ci siamo nascosti, lei è uscita, abbiamo fatto l'appuntamento, ci siamo nascosti, abbiamo visto lontano, mamma di urti cantera Vegas, e poi ci chiamava in radio, Claudio, Antonio, ci siete, cazzo non rispondiamo, non siete venuti all'appuntamento, passa via. Le voci migliori che c'erano in frequenza erano Luce e Fiocco di Neve. Ehi, aggiungi a Luce, Luce del mattino e Fiocco, sì, ma Luce era una cosa arrappante, arrappante. E lì te l'hai uscito, ma pesci, adesso siamo nascosti, mamma di tutti. Ui, quando ci chiamava, ci siete, ui, altro non rispondi, cazzo, non guai. Itria va via la cosa. Io ne ho visto cristiani brutti, ma mi dice a vermi, ma brutta, bassa, brutta, non era neanche grassa, normale, ma era bassa e brutta. Cazzo, si vedeva da lontano il taglio proprio dei baffi neri, cazzo, ha detto, mamma mia, c'è un transanto. Ma com'è che l'avevi giunta appresso? A me Luce del mattino mi diceva Natalino carissimo. Anche Luce non è che fosse così, aveva solo la voce bella e bassa, poi di persona, anche lei dava desiderare. Io non l'ho mai conosciuta, ci ho parlato tantissime volte. Cazzo, va via la voce arrapante a vista. Io Natalino l'ho conosciuta a casa della mamma di Bartolomeo Tisiele, perché un sabato, la domenica, io andavo a prendere a Gavina con Domenico, no? A Gavina Sciosciò già, perché sempre volevano andare a Bartolomeo, poi Bartolomeo andava lì, erano molto amici. E allora ogni tanto io Poggia e andiamo a trovare Bartolomeo. E capitava a volte che ci fosse, che c'era Giuseppe Intrepido con la moglie, capito? E quindi l'ho conosciuta lì, se no a me una tutti a sé, riconosci a Edda. No, io l'ho conosciuta purtroppo al funerale di Intrepido, la moglie. Non l'avevo mai vista prima. Brutta come una minchia, mamma mia, ma era brutta. Era bellicia, tutta ben messa, truccata e fa. Ma tante volte la voce inganna, infatti non bisogna mai farsi prendere dalla voce. No, un produttore, non so se tu ti ricordi di Carottina, che era la sorella di Coglio. Di Vacca, come si chiama? Vacca di cognome, si era, abita lì dove c'è Radio del Golfo, sopra abitava, adesso non so dove abita, proprio sotto dove abita Gavina, che non so se sia ancora viva, ma era molto bellina, molto molto bellina, era una ragazzina, io mi ricordo aveva 14 anni quando è entrata in radio, non lo sai, un po' più, mi pare 16enne, 17enne, era tutto pieno di ragazzi a Porto. C'era la figlia di Tadò, che era molto bella lo stesso, c'era la figlia di Gojo, come si chiama? Rinamento più, comunque c'era un bel ragazzo bello a Portoresi, faceva piacere frequentarle, parlarci eccetera, cazzo già, ma mica questa era brutta forte, brutta, brutta, brutta. È presente la, come cazzo si chiama? Quello che faceva i film, come si chiama quell'attrice che faceva i film con Paolo Villaggio, Catuscia. Anna Massamauro. Bravissimo, uguale ad Anna Massamauro in miniatura. Cattola brutta, brutta. Progarità, è tua. La fiacca di Cambone. Sempre ogni tanto, perché il compare di mio fratello, no? Quando ci riuniamo, eccetera, anche da poco ci ho visto. Lo dice sempre, beh, se non la trasmetto Pasqualina, mamma mia, che tu te la metti, io me la metto. Al pari ci è andato all'appuntamento alla fine di quello del faro. E allora, eravamo in radio, eravamo, io, Antonio Benedi, mio fratello, a Toro c'era Bonana, Gavino Carciofo, Bartolomeo, c'era Francesco TM, mi pare che era pure Fortunato Alfetta, eravamo un bel mio Toro. Questa entrava sempre, noi stavamo nel canale, non mi ricordo se era Bulldo, forse il 12, che è stato mitico a Polo 12, canale 12 c'erano. E questa entrava, io ho figliato dove abita mamma, abita lì a Cavour, dove avevo l'antenna lì, quindi il faro ce l'ho davanti, era stato 200-300 metri, in linea d'aria. Doveva arrivare una bomba, non ne potevo manco spostare di canale, non potevo scappare perché ti metteva appresso, ci splatterevamo a vicenda. E ci metteva appresso a me Antonio, ci metteva appresso, una cosa terribile. KK, vabbè, tempi passati, Zucla, purtroppo, passati sono, adesso va bene, non si intende più in radio, prima c'era il pienone. Claro, pure dire Anna Massamauro ai suoi tempi non era brutta, la moglie di Fantozzi era fea, vabbè, era un macio visto. Vabbè, Anna Massamauro non è mai stata bella, io me la ricordo, non è che ho 20 anni, nel 62, fa poco, quindi me la ricordo, non è stata mai una bella donna, però te dico, oggi come vedi tu la Anna Massamauro oggi, Ghisa era in miniatura e più giovane, uscì brutta che bamba bì. Vabbè, poi quando era giovane abbiamo visto dalle foto adesso, quando era giovane era una bella donna, vero Mari? E poi è un tipo, Anna Massamauro, poi vabbè, una grande donna, una brava attrice, quindi se quella era come Anna Massamauro, Maria era anche una persona in gabba, non lo so. Fantocci! Ciao Mari, non lo so, io me la ricordo così, con questo naso lungo, un brucca, e poi il problema è che c'erano i baffi davvero, non sto scherzando. Cioè tu immaginati un maschio che sta spuntando la barba, si vede già il baffo, insomma, uscire da lontano, ma immaginati da vicino. Tu che abbiamo visto delle foto là in gamba, una bella donna, là. Poi vabbè con gli anni, è così. Dove? Era un tipo, poteva magari piacere come poteva non piacere, era un tipo. Una macchina di Gianni, un tipo. Una tippa era, una tippa. Vabbè. Altri tempi comunque, ne abbiamo conosciuto in frequenza belle donne, belle ragazze, perlomeno io mi ricordo che il polo c'era pieno, le figlie di quello, le figlie di quell'altro, poi ragazze che entravano, c'erano tante, c'erano tutte le figlie dei pescatori di allora, mia, la Zagari era buona già, non so se tu l'hai conosciuta, la vedeva di Paraglioni, di Gennaro. Non ce l'ho presente, claro, non ce l'ho presente, buh. Comunque Anna Massamauro la conosce da sempre con un naso lungo, fa che di droni, non so dove è stata mai bella. Luca ha visto le foto, ma era così, altrimenti a Gennaro il Paraglione, e lui era male, ma Giampaolo che faceva un peschereccio, il Paraglione, crema madoia, ruttini, ne diceva tutti i colori. Vabbè, tutti va via, nemmeno giù in chimica. E tutti, c'era la villa di Tadù abitava sopra dove lavoravi tu, al turismo marketing di Principe di Piemonte, abitava lì, ti ricordi a Miglia Spogliata con, non mi ricordo, il cognato di Sardino, è lui, il cognato di Sardino, lavorava la Girola, c'era anche lui il baracchino, adesso non mi ricordo più i nomi, ma sono passati tantissimi anni, Pippi, te la ricordi a Pippi? Pippi Casalunghe. Pippi si faceva chiamare, Pippi, ma era molto bella, molto. l'ufficio non era un peschereccio. Ti ricordi che le sorelle Falqui? No, Antonio, fammi memoria, le sorelle Falqui. Ehi, parlavo una baracchina da via Pasquale Paoli, che sono usciti di testa in due, Giampaolo Mandrache e quell'altro di Porottone, che sono nati assieme a Genova. Ho capito, ma non li ho mai... Li ho sentite qualche volta, ma non mi ricordo. Io mi ricordo di quella di Portatore, cioè molto bella. C'era Topolino, lui, Topolina, lei, parlavano da via Barai. Parlavano da via Barai. Lei era una bellissima signora. No, ce n'era di gente in gamba, me lo ricordo come oggi. Ma questa era una di quelle che poi abbiamo cercato di piano piano eliminare. La banana Gabino Carciofo lo stesso. Meno male gliel'avevamo detto io e Antonio, sino pure lui dove andendo a conoscerla. Ah, vabbè, io lo sai che c'era il periodo che le ragazze rimanevano fino alle 3-4 del mattino, c'era la moglie di Gino Montoro, Lucia, che parlava mattina e sera e notte. Poi c'è la figlia di quello che c'ha il negozio, la figlia di Mangattia, Pinello, modulava. Poi, se ti ricordi, a ottava c'era Piruccia, Marisa e Cosicca, miei cugini. Piruccia c'aveva la stessa identica voce di cosa, di Lucia del mattino, precisa, se te lo ricordi. Nel 74, perché io in pratica Piero ha fatto, quando sono entrato io, ha tolto il baracchino a loro, perché non si è attaccato al baracchino, non stavano mai in negozio. Antonio, consiglia, io sto parlando di Porto Torres. Io sono arrivato a Sassari nell'85, quindi nell'85 sono arrivato a Sassari quando mi hanno consegnato la casa dei Carbonazzi. Quindi in quegli anni ero produttore, poi come sono arrivato qua, che ho messo la radio, mi ricordo sì che c'erano ragazze, però non, io ero già sposato, quindi non è che mi interessava più di tanto, però già ce n'erano di ragazze che parlavano, magari voi, tu che sei, non sei mai stato sposato, ma le frequentavi anche, non so, vabbè. KDK, dai, io rimango un attimo in Quirix che devo vedere il perché, usando questo cazzo di Adonis mi sta creando tanti di quei problemi che non viene bene a dirlo. Devo tenere il mic gain bassissimo, la potenza bassa perché altrimenti innesca. Voglio capire se il connettore è quello clippato che mi sta creando problemi o se ha bisogno di qualche massa, perché questo microfono è peggio dell'MC60, vabbè, però funziona molto bene. Vai già, riprendi tu che io rimango un attimo in Quirix, voglio vedere se riesco a risolvere questo inghippo. Ehi, a Porto Torres sono al satellite, era pieno di antenne, pieno! Dove ti giravi, ma erano tutti i voli di pescatori, li chiamavano, c'era zia Gavina che chiamava il pescatore, il marito, che pongo la bassa, arrivendi, sì, amavo il bel genio, sono che arrivendi, e allora pongo la bassa. Chi Gavina chiamava Domenico, molte volte Domenico non rientrava, e allora mi chiamava Gavina e diceva, ma qua lì, ma accompagna, possiamo mangiare Domenico, io aspetta, sto passando, passavo, la prendevo, la portavo, allora non abitava su, dove c'è Torre Burroni, abitava più giù, dove abitava Virgilio Balzarelli, praticamente all'angolo con via, cos'è quella, via Misicola mi pare, non mi ricordo, lì abitava Gavina. Quindi io facevo il giro, passavo, la prendevo, la portavo al porto. Domenico era imbarcato sul Vincente, poi avevano spostato sul Moretto, comunque, era lì. Ma il rimorchiatore? Sì, Domenico era morto nei rimorchiatori. Ha fatto... Allora, quando l'ho conosciuto io mi pare che era sul Moretto. Poi è arrivato il Vincente da Cagliari, che il comandante era Camedda, ed era imbarcato lì. E lì mi pare che se n'è andato in pensione, poi poverino è morto, ma comunque da lì è sbarcato lui, dal Vincente. Prendete ragazzi, fate girare, io voglio vedere se riesco a risolvere questo problema. Di Nattalino. Nattalino non parla, che è rimasto Pompugno, tutti buci. Quindi come andiamo, che ho detto l'atto. Tu lo hai detto, sì? Ho detto, sono rientrato. Cos'hai capito? Non si capiva nulla. No, ho parlato distante, è veloce poi. Ho detto, sono rientrato, cosa di Ghittetto? Ghittetto, brutto buco. E dai, che mi ha rotto, non te l'hai fatta così. No, assolutamente. Sono uscito a farmi la spesa, più che altro per prendere quello che mi serviva. Ne sono arrivato con la lingua fuori. Sono 3 giorni che sono tutto a Durgoisso. E non riesco a cavare nei piedi. Non so cosa diavolo sia, c'ho il collo, appena mi giro, c'ho capogiro, no? O a destra o a sinistra. Adesso aspetto, se tutto va bene, mercoledì o giovedì, vado e mi faccio controllare. Perché non è una cosa normale, questo, capito? Ti giri per dire nel cuscino e cazzo ti vedi tutta la girare tutta quanta la stanza. Capito? Evidentemente ho preso freddo, non lo so, tutto, vabbè che sono stato sempre in moto, anche con la neve uscivo e se no acqua che prendevo. Te lo dico io così, l'artrosi cervicale e anche reumatismi, la vecchiaia è Antone, Garone la vecchiaia. Ma è brutto così, è brutto perché quando ti pieghi, quando ti, per dire, vai a raccogliere qualcosa da terra, è la stessa identica cosa, sono già caduto 2 volte io, mi sono visto in terra e mi sono fatto anche male. Hai capito? Quando sono andato in ospedale mi hanno messo ha detto quando rientra a casa dice si ordini il busto, perché ci vuole il busto, mi ha detto, per lei. E tu ordinato te l'ha? No, non l'ho ordinato, anche perché prima di tutto non avevo i soldi per comprarlo, nel senso che i soldi contanti non ne ho, me lo sai con quella carta poco da comprare il busto, c'hai lì. E magari il mal di schiena ce l'è per quello, perché ha preso il colpo lì. Più che altro il colpo non l'ho preso lì, l'ho preso tanti anni fa, quando uscivo in moto con lo scooter, aveva appena piovuto, era pieno agosto, la prima pioggia, avevano fatto dei lavori in comune e ci sono strappato come un imbecille con lo scuba. E sono caduto in terra, ma pensavo di non avere niente, la verità, mi appena per il ginocchio mi ho graffiato, ma di nuovo di mattina, e cosa è Antonio Cucullo, quello del bar, è uscito fuori veloce, Antonio ti chiamo l'ambulanza, ti fai controllare, guarda, ho detto guarda non c'è niente, non ti preoccupare, e adesso ne ho le conseguenze. Infatti sono colpi che hai preso, magari ti si trasforma in reumatismo. È da controllare, c'è un sacco di gente mia così. Il problema è se dovessi essere operato, mi devono operare nella gola, già lo sai, e mettermi una specie di placca, hai capito? Per eliminare questo problema. Che ha la gola? Non sapevo nulla, Antonio. L'ho visto in televisione, una persona che aveva in pratica aveva questo problema qui, e cosa faceva? Quando la cervicale prendeva e ricomprimeva la vena, hai capito? Allora hanno voluto aprire la gola, mettergli questa placca, in modo che non comprimesse la gola, hai capito? Cioè la gola, la cervicale, nel modo che non comprimesse la vena, più che altro, hai capito? È stata bene, ha fatto 2 operazioni, però è stata veramente bene, ma prima dice che la cosa allucinata non riusciva a cavare i piedi, cadeva in terra, la mattina come si alzava, in terra a letto, gli veniva questo cappuccino forte, e la stessa cosa viene anche a me. Hai capito? Ma c'è un sacco di gente così, non è che ci sono solo io. E il fatto che quando siamo stati giovani, la moto ci ha rovinato, vabbè, mi ha rovinato a me, anche lì via San Donato, perché in quella casa dove abitavo prima era umida, e quindi quando ti coricavi dal letto, c'avevi il letto umido, bagnato quasi. Ma ormai sono stato neanche 8 mesi e poi sono venuto qui a abitare. Però i problemi ce li ho, prima non li ho mai avuti. Beh, l'umido è quello, la ragione. Quando stai nell'umido e poi ne risenti. E anche quando c'è frattura, cioè, si trasformano tutte. Io sono stato operato al menisco e si è trasformato in artrosi, mi è venuto un dolore quest'estate, non riuscivo più a camminare grazie al ginocchio, ho detto ma allora mi devono operare di nuovo al ginocchio, e invece meno male erano solo reumatismi, cavolo, ma sono stato un bel po' mica in qui capo. Al ginocchio non ne parliamo, al ginocchio quando andavo di Alghero a fare il manovale muratore prendevo i cantoni da 80, me li salivo e me li scendevo per 2 piani di scale, a parte il cemento prendevo i come si chiama, i bidoni della tinta, li riempivo a metà e li salivo a due per bilanciarmi fino al terzo piano insieme al fratello di Marco Alfa Romeo. Ho fatto il manovale insieme a lui. Lui faceva il muratore, io facevo il manovale facevo il cemento con la pala, lo portavo sopra, capito? E quindi mi sono sganocchiato bene le ginocchia. E infatti c'ho anche dolori anche lì. A volte le gambe mi danno problemi. Mi hanno operato al femore perché non riuscivo più a camminare. Ui. Adesso grazie a Dio sto bene, dai. Non mi posso lamentare, ma mi hanno dovuto tagliare il femore e mettermi la protesi perché non riuscivo più a camminare. Purtroppo è così. Dopo 50 anni comincia a serati, hai capito, le ossa e cose del genere. Purtroppo è così. Quando c'hai 20-30 anni te le fatte le balle, in moto, anche le stampate, per dire, se le facevi stampate in moto non ti facevano male niente. Oppure c'era il vizio che quando uscivamo, vabbè, quando uscivi in moto il parco non era obbligatorio, ti bagnavi i capelli, cazzo, come si faceva la volta, mamma, si bagnava i capelli, col coso, cos'era quella cosa che si metteva per fare i capelli lucci lucci, e infatti non puoi che li appesti come li ho presi anch'io. Angel, sì, bravo. Anche Giampiero la stessa cosa, Giampiero ci va, mi pigliava per il culo a me. E sta prendendo i capelli di Antonella, io ce l'ho, e detto, non ti preoccupare, già li prende anche tu, infatti già li ha presi anche lui, adesso. Ecco. Avanti. Ciao Gianni, ciao Pomponio. Ciao Fabri. Beh Fabrizio, buonasera. Ciao, buonasera. Ascolta, devo fare che sto facendo delle prove con questo microfono. Vedere come sta uscendo. Chiaro, limpido e recuare. Ascolta, ma posso aumentare? Se aumento così, se sto aumentando così, che cosa succede? Più o meno è uguale. E in questa maniera è sempre uguale, oppure è aumentato nelle tre prove? Hai aumentato, ma si sentono rumori sottofondo. Ma come ti sembra, molto amplificato, tipo il K di meno? Sì, amplificato, va bene. Forse c'è qualche ventola, si sente tipo una ventola. La ventola, così ho abbassato leggermente, va meglio? Sì, va meglio. Quando la abbassi va meglio, quando la alzi si porta dietro i rumori della ventola. Diciamo, non è come il K, però è amplificato, dai. Avanti Antone, secondo te? Quando ho aumentato Maria, che fosse il che col processore a manettone, capito? No, non a manettone, manettone, però era molto amplificato, poi era detta, vabbè, io siamo di fronte in pratica con Fabrizio, quindi. Sì, no, ma l'amplificazione l'ho sentita anch'io, però si portava rumori dietro, capito? Quello è. Vabbè, anche questo microfono si porta via, cioè, ha perso i rumori. E che adesso non c'ho quell'alimentatore famoso acceso, quello che c'ha quell'avvento là, che fa rumore. Se no, tra quello di Salerta, sarebbe stato un casino. Sto usando adesso l'alimentatore, quello piccolino, da 6-7 ampere, non di più. Asco, ma Claudio non c'è che lo volevo far sentire a lui? Sì, c'è, ma stava controllando un microfono che non gli stava andando bene. Claudio, avanti. Qua Sogno, ciao Fabri. Asco, sto provando un baracchino che abbiamo messo con il Turner Super Sideric. Come ti sembra, si può aumentare o lo lascio così? Ti sto per fare delle prove, volevo capire come usciva. Vabbè, se non lo dicevi sembrava un 60, è fortissima, io ti sto ascoltando col trappa, è più che eccezionale, va bene, no, non aumentare di più, lasciala così. Asco, adesso questo Super Series lo attacco immediatamente sul K, aspetta, dimmi come va. Eia, prova, sì, già, niente, c'era un filettino che stava toccando, infatti mi sembrava strano perché questi microfoni sono abbastanza professionali. Esce bene, no? K. È tipo il 60, però anziché essere come il 60 è flessibile, come l'MC80, beh. Però escono bene gli adonis. Mi sembrava strano. C'era un filettino che stava toccando sulla calza, ogni tanto mi fischiava. Ho detto, ma mi sembrava che era pigliato anche perché è crippato. Quindi non è che ci siano molti discorsi da fare. Vieni avanti Fabri, fammi sentire. Ecco, questo è il Super Sideric, sempre col K, non so se lo devo aumentare o diminuire. Bravo. appena appena. Ho dato un pochettino, un'altra appena appena. Fabri, non ti offendere, ma si mette in tasca l'MC60, Gianni. Sì, va molto bene, è una radio che va, bella, bella. Fenomenale, ce l'ho anche io Super Sideric, sai dei kick. Allora, ho aumentato un altro po', che cosa succede aumentando un altro po' qua? No, è fortissima, non distorce, cioè i medio bassi molto molto corretti, veramente molto corretti, perché quei microfoni danno sempre sull'acuto, ma qua c'è una tonalità perfetta, proprio perfetta, perfetta, come il 60. Allora, adesso senti questo qua, adesso prova ad attaccare l'altro, vediamo un attimino che differenza c'è. Ok, se disturbiamo ci spostiamo al 20, Fabri, così ti trovi i controlli più accurati e qua fanno girare la ruota, come cose, Mike, buongiorno. Sì, un attimo, che poi devo risalire sul tetto, adesso devo portare sull'antenna, aspetta. No, adesso non si è uscito di radio. Ascolta, questo invece è praticamente, vabbè, o uno o l'altro è uguale, come l'MC60, diciamo, dai. Leggermente più bassa come spinta, però come tonalità ci siamo. Vabbè, però questo qua, aspetta, se io lo aumento leggermente dal Mickey Gain, ho aumentato leggermente dal Mickey Gain, che cosa succede? Che sei quasi per strappare, Fabri. Adesso ho diminuito leggermente dal Mickey Gain, che cosa sta succedendo? Niente, modulazione corposa, bella, pimpante, amplificata, le tonalità sia medio-basse che medio-alte sono abbastanza corrette, va bene così. E in confronto all'altro quale ti sembra che spinga di più? Quell'altro lo spinge di più perché c'ha più acuti, c'ha gli acuti un po' più alti e quindi spinge un po' di più, però la tonalità diciamo che è simile. Adesso rifaccio la prova, allora, questo praticamente, che poi è uguale, adesso ho collegato questo M50 modificato, ma è la stessa cosa, già l'abbiamo sentito ieri, adesso provo l'altro, aspetta. Questo invece è il Turner Super Sideric. Devi abbassare appena appena un pelino perché l'hai toccato sicuramente il Mickey Gain della radio. È fortissima. È due volte superiore a quella che stavi usando prima. Ecco qua, adesso ho abbassato un pochettino, forse ho abbassato anche troppo. No, va bene, è fortissima. È più alta come tonalità, Fabrizio, più acuti e più amplificata. Però la tonalità è simile a quella del 50, precisa identica. non ti sembra che spinga un po' di più? Non è che mi sembra, è proprio la realtà, è proprio spinge di più. Allora, sono su questo. A te come ti sembra? Già, ti piace di più questo? Sì, è più forte, però secondo me l'altra è più chiara come radio. Perlomeno io la sento così. L'altra rimane più nitida come radio. Questa qua forse è troppo forte, Fabrizio, troppo forte e sta quasi per strappare da me. Posso anche abbassarla leggermente, non è un grosso problema. Prova. Adesso aspetta. Adesso abbasso leggermente, vediamo cosa succede in questa maniera. No, così va bene, dai, così sta andando bene. Però la sento più chiara l'altra, non lo so, come radio la sento più chiara. Più o meno sono, si equivalgono, ma è più chiara la radio l'altra, secondo me. A te come ti sembra? Ti piace di più queste due qua? Questa è già. Se lo ricevi con, non lo so che radio stai usando, però se metti il Galaxy sicuramente te ne accorgi che c'è già una ricezione superiore ai veicolari. È ottima la modulazione, fortissima. Sì, non la usare troppo alta perché tende ad avere molti acuti e con la tua voce, che come la mia, molto molto grossa, tende a gracchiare, forse è quello che voleva dire Gianni, mentre l'altra rimane leggermente più chiara perché è meno bassa già, capito? Però questa è fortissima, mi piace tantissimo, ce l'ho anche io il canale più 3, però non ho il collegamento da 8 a 4. Questo l'ho fatto per il Kengu, dopo ho fatto la fattore anche per l'altra radio, quindi diciamo che anche questa non è male, è attesa un po' così. È troppo occupa questa. Vabbè, io ti sto ricevendo con l'FM500S, quindi con l'altra è molto molto più chiaro, c'è più toni alti, con questa c'è troppi toni bassi, perlomeno io ti sto ricevendo con l'altoparlante nell'FM500S, quindi già lo sai che apparecchio è un lavandino incrociato con un cocker, quindi. Aspetta, adesso faccio l'ultima cosa con questo microfono, perché non lo devo lasciare? Mi sto mettendo a posto, aspetta. Ma che distanza stai parlando, Fabrizio? Adesso vuol dire che ogni tanto va vicino, va lontano, c'è tutto qua. Perché devi avere una distanza fissa, come usi il 60, tranquillo, 20-30 cm, perché se ti avvicini a ragione a pleno diventa cupa. Questo è basso proprio, lo vedo dal coso, non sta spingendo molto. Devo aumentare il mitigain sicuramente. Sì, questo sembra normale. Questo è l'MC60, a caso spinge più quello l'MC50 modificato. Anche se questo è un 60, manca paragone con quel 50 che è modificato. Però aspetta, processo, bisogna aumentare. Adesso ho aumentato un po' il mitigain. Come ti sembra? 1, 2, 3 prove. Ma sei sicuro che in posizione in l'impedenza è giusta? Sì. In posizione out. Abbassa il mitigain adesso. Ecco, 1, 2, 3, prova. Troppo alto ancora il mitigain. No, questa è la tua modulazione, Fabri, come moduli sempre. Questo è nettamente superiore a tutti i microfoni che hai usato, anche al 50. Si assomiglia molto al 50, però spinge molto di più questa. Allora, facciamo una cosa, adesso regoliamoci questo MC50, MC60, 1, 2, 3 prova, 1, 2, 3 prova, dimmi se deve aumentare o diminuire qua. Non deve toccare niente, va bene così, Fabrizio. Adesso provo l'MC50, con la stessa toccare niente, a vedere cosa cambia. Prova. Allora, questo è l'MC50, adesso sto provando l'MC50, più o meno sono la stessa distanza. Cazzo, già, aiutami, sbaglio io o questa è leggermente più chiara? Già. Radio, non vi stavo seguendo. Questa mi sembra leggermente più chiara, Antonè? È leggermente più bassa questa, ma di poco dall'MC60. Però hai notato la tonalità, mi sembra leggermente più chiara, sì, che sia leggermente più bassa, sì, 60 spinge sicuramente di più, però come chiarezza questa mi sembra leggermente più chiara, praticamente forse perché è leggermente più bassa, Fabri, però la tonalità è spiccicata, precisa e identica, sia di tonalità medio-bassa che medio-alta. Sì, Sì, però consiglia, allora, questo elemento, consiglia se con questo io gli aumento un pochettino più di Mickey Green, magari va a rassomigliarsi ancora di più. Esatto, adesso è aumentato leggermente. Sì, è aumentato leggermente. Adesso senza toccare niente, mettimi il 60, perché può darsi che per il 60 sia troppo alta, prova. Probabilmente sì. Adesso c'è un Ruice. Ecco, adesso questo è il 60, probabilmente magari è troppo alta. Si conferma, è troppo alta, sì, stai tendendo a strappare. Aspetta che abbasso leggermente. Guarda, ho abbassato leggermente, è troppo o devo ancora abbassare o aumentare? Quanto ce l'hai? Dimmi a quanto, cosa stai usando, il 44? Sì, sono a circa 1 adesso. Fabri, io lo tenevo per tutta la regolazione giusta, era in mezzo, tra l'1 e il 2, ma scarso, non 1,5 scarso, 1,5 scarso. Lo so, però ogni radio dipende da dentro. Ascolta, adesso io l'ho leggermente aumentata, come ti sembra? Così per il 60 va bene, prova il 50 se cala di molto o se va bene. Comunque così questo qua e il 60 va bene, giusto? Sì, sì, con la mia radio sì, ti ascolto benissimo, è chiaro e forte, prova il 50, ti sta andando benissimo Gianni, ecco così. Questo invece è il 50, 1, 2, 3, prova, mi avvicino più o meno con quell'altro, questo invece è il 50. Guarda, secondo me il compromesso è giusto, puoi usare tutte e due così, perché vanno benissimo tutte e due. C'è un pelino, ma dico un pelino, se uno non sta attento non se ne accorge neanche, prevale un po', ma proprio un pelino, ti ripeto, un acuto leggermente più alto del 60, però il compromesso è questo, vanno bene tutte e due così con questa regolazione. Invece questo è il Super Sideric, questo è il Super Sideric. Questo rimane con i bassi e un po' più consistenti, manca appena appena di acuti, però in linea di massima anche con questo puoi modulare tranquillamente, sempre mantenendo il Mickey Gain della radio a quel livello lì. Va bene, tutto anche se lo parlavamo qua. Va bene, adesso oggi sto per capire un pochettino di come stava andando. Adesso ti faccio l'ultimo passaggio con l'altra radio e mi chiamo attimo. K di Roggero. Com'è con lui sul segnale, Claudio? Bisogna vedere, maledetto, come si è messo. No, è normale, non ho attaccato niente, sono normale con lui se basta, quando ho attaccato lui. No, ma già me ne accorgo, ero sette occhiali. Sei 9,10, non picchi a 9 più 15, quando attacchi sei sul 30. Che bagala. Cioè va bene, dai, c'è con quasi 8 watt, quasi 10, con picchi a 10. Di abbinamento c'hai già di microfono? La static che ho come microfono. Buono, buon abbinamento, belli acuti, medio bassi giusti, va bene. No Fabri, non stai uscendo. Mi ero dimenticato che quando lo collego ai baracchini gli doveva alimentare con la batteria, me l'ho dimenticato. No, il baracchino è una Formula 1, minchia. Cioè il baracchino è completamente diverso, bellissima modulazione, fortissima, bella acuta, belle tonalità. E lo avrei messo su quel baracchino là? Sì, sì, sì, PT3006, sempre la solita scheda. Quello c'ha, e niente, l'ho messo là. È vero che spinge molto bene con questo baracchino. Questa bellissima radio, Gianni. Cappa. Sì, sì, va bene Fabri. Su che apparato l'hai messo, se lecito sapere? Diciamo che è come il tuo alla fine, è come il Saturn. Cappa, cappa. Io questo qui è un Royce Vintage con una static come modificato, gli ho cambiato il filo, gli ho messo un filo lungo per arrivare bene a letto così posso sdraiare. Sarà 2 litri un filo, io non avevo mai visto fili di microfono così lunghi, spiralato già ce ne sono. Dai, aspetta che io proseguo a finire dei lavori, che qua c'è un gran casino. Dai, ti ringrazio, vabbè, adesso no, per sapere un po' anche i microfoni, perché erano buttati su in soffitta e non in soffitta, una casetta su e non sapevo nemmeno com'erano. Allora so che questi sono a posto adesso, quello l'ho modificato, è come un 60, quindi va benissimo. Ok, ottimo Fabri, grande abbinamento su quella radio lì, va bene, tutti e tre i microfoni che hai provato sono perfetti. Oh Gappa, dai, ci aggiorniamo dopo. Ehi, Gappa, siamo qua, avanti a chi tocca? Oh già, io non sto innescando, tutto a posto? Tutto ok? No, se lo trovi detto, no, stai andando bene. Si liscio bene, dai. E questo qui era un po' di tempo che non attaccavo, adesso ho detto va, le faccio fare un giro, anche a questo qua che era fermo un po' di tempo, dai. No, va bene. Ottimo. Anche quello, ottimo abbinamento, ottimo tutto già, non ci sono problemi. Questo qua era un microfono che era già, aveva già la sua fine, praticamente era pronto a buttare via. Me l'ho preso e modificato, cambiato il filo e l'ho collegato a Ruiz. E va bene, dai, meno male che va bene. No, non va bene, va benissimo, alla grande, ottimo abbinamento, ti ripeto, i medio bassi sono giusti, i medio alti, gli acuti sono giusti, va bene. Antone, da ragazzere ci hai aiuto. No, già sono qua, non ti preoccupare. Aspetta che cambio il microfono, il baracchino. Passo col 39 adesso. L'avevi trovato poi 140 o sì 80, no? No, ne ho visto uno l'altro giorno 400, oggi ne ho visto uno 380, è nuovo, però questo è tutto scemo, dalla Campania. Invece l'altro ne voleva 400 qualcosa, ti regalo l'altopannante, hai avuto l'altopannante dopo puntare in culo, in pratica, per 400 euro. Sono esauriti questi qua, già dallo trovo, già c'ho pazienza, se no c'era un Petrus Miss stasera, nuovo fiammante, 170 euro, è bello, quello metallizzato, come Petrus andava anche bene, la verità, ma non me le fate nulla le Petrus, l'ho avuto, lo sapevo me che l'ho avuto, perché altro mi serve il 180 o 140 per allinearmi i due baracchini che c'ho da allineare in FM, che c'hanno tutti i problemi, sia l'FM 500S che l'altro, il 3009, è l'unico metodo con Kenwood, perché veniva benissimo l'allineamento. E invece vabbè, adesso lascio così, già c'ho pazienza, prima o poi già lo trovo. Dai uno sguardo allo smitter a vedere come va. Assieme pongo il PC, ti parlo, prova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì, 9 più 30 pieno. Yeah. Ottima, la radio non se ne va, rimane stabile. Ottimo abbinamento già. Va bene. Sì, Antone, guarda, te lo dico per esperienza vissuta, lo sai che io ne ho venduto tante. Il C80 ha tenuto molto il prezzo perché è ancora in voga per gli armatori, c'è i sinistri, quindi chi lo vende non lo vende meno di 400 euro, il C80. Il 140 a 300 euro si può comprare, non di più. 280, 300, 320, ma il prezzo suo è 300 euro, se è a posto, se è in ordine, se è nuovo. Capito? Però il C80 non te lo dà nessuno, meno di 400 euro, perché c'è la scheda dei sinistri, e la scheda dei sinistri costa una barca di soldi, capito? Vale 150-200 euro in più del 140, però la media è quella, insomma, 380-400 euro, 680, 140 lo trovi anche, se lo trovi buono, come l'avevo trovato io, a 300 euro ce n'hai quanti ne vuoi. Ah, uno 300 euro le voglio e basta, non mi interessa niente. Spendere 380 euro per i 80, a me di 50 non me ne frega proprio niente, non ne ho di telefono di cordless da allineare, quindi mi va bene anche 140, anzi forse 140 anche meglio, perché almeno c'ho il box, mentre il 80 c'ha l'amplificatore dell'antenna che non si dà nulla. Amplifica il QRM, no, sono amplificatori d'antenna quelli, no? Quando parliamo di amplificatori. no, dobbiamo parlare di cose serie. HF col pescato l'antenna deve portare sul segnale e farti sentire meglio il corrispondente, no? Aumentate il QRM, non se li annunta. Ma infatti per un CB se 80 non te ne fai niente, lo paghi di più per avere cose simmetriche, non li usi, non c'è nessuno, ci vogliono le antenne, capito? Oddio, c'è gente ma ci vogliono le antenne, eccetera. Mentre invece quando c'è un 140, un 030 è più che sufficiente. Va bene, va bene. Ma non c'era anche Natalino, Luca? Natalino, cuocuomane. Io sto stirando, Clara, la roba, la mia roba, camicie, pantalone, maglietta. La cervicale viene la nausea, capogio, quindi stiro io. Mi ho stirato anche le camicie di Varia. Aria al zinco, le ho tutte stirate ieri, oggi sono per riposo. Niente lavori forzati, bella giornata oggi, cazzo, bella giornata, se fa domani così, se fa domani così, no, mi pare di no, cazzo. Mi tolgo un po' di carne, faccio una bella rostita domani a pranzo, ma mi sa di no. Fai la rostita domani, che c'è la letta meteo di usilo, c'è. Temporali domani. L'ho visto oggi, l'ho visto. Dico come lo stile letto, mi ho fatto io dire, la volta che ho comprato le sardine volevo lo stile fuori e invece ho venuto allo stile lento. E poi il compagno mio l'ha aggiubato dentro casa. Volevo comprare carne e farla fuori. Oh, domani ci sono uscito col freddo che c'era, no? Saranno. No, non mi interessa, a me infatti non piova perché mi dà fastidio, già c'ho la veranda, io ce l'ho nella veranda sotto, capito? Quindi no, non me la futti nulla. Però se piove me la fastidio, perché non puoi stare fuori, niente. Va bene, va bene. E il 20 è il mio compleanno, il 20 novembre, saremo, sì, saremo a Ventina. Speriamo che faccia bel tempo. Spero di sì. Io l'ho fatto il 9 di novembre, figurati. Il 10 era Andrea Maricomio. Perché altro c'era? Boh, 10, qui non me ne ricordo nessun altro. Più di me che l'ho fatto, quindi siamo tutti scorpioni, sia. Tutti scorpioni, bene mera, eia. Perché lo fa anche il compagno di mia sorella, il 20, capito, quindi festeggiamo anche assieme, quindi vengono l'albero, la produttore, la vita di chiedere a Magna, anche io ho cugino di Giunuda, sto scherzando, è una bella cosa, adesso vediamo, aspetta, se il tempo ci assiste, ci divertiamo anche, se no ci staremo dentro, e dovete dire, avanti già. Vabbè, se no c'è la tettuia, la russisci fuori e poi venire di dentro, non è quello il problema è stare in compagnia. No, già tettuia è brutto, io faccio la veranda, no, la tettuia. Veranda, tettuia, come la diceva, non lo so io che cosa c'è perché non l'ho vista. Comunque è riparato, dai, quello voglio dire. No, veranda fatta in cemento, no, non tettuia. C'ho 20 metri di veranda per sei, tutta in muratura, diciamo, è tutta pavimentata in marmo rosa. Ma è chiusa? No, la chiudi, no, volevamo chiudere i laterali, ma non la chiudo, boh. Vediamo, perché sennò mi toglie tutta la bellezza, no. C'ha tre arcate grandi, due arcate grandi centrali e due laterali. Avevo intenzione di chiuderla, però poi me l'hanno sconsigliato, capito? Tanto spazio non mai serve, quello si fa quando hai bisogno di spazio, anche d'inverno, per sfruttartela d'inverno, ma a me non me ne frega niente. E in giuro, c'è una stanza che è 10, 8 metri per 4, ancora da finire fuori dalla parte del cavrio, esce un altro mini appartamento. Oramai va la riggia. Cosa già? Ho detto, oramai c'è la riggia. Ah già, chi l'ha vista non sta mai a giudicare, però è una bella casa grande, spaziosa, non ti manca niente, poi le case sono belle. Questa è 100, senza contare nel Carveglio, che ci puoi camminare, fare, che facciamo un sacco di cose dietro il Carveglio, è 150 metri quadri. Considera l'altra stanza che c'è attaccata, è un bel grande, c'ho più di 200 metri quadri di giardino. Già vabbè, anche perché per il cane tutto quanto è meglio, non devi stare a uscire, fai uscire il cane, non devi stare a uscire tu, va bene, il cane ti porta anche a conoscere gente, farti quattro chiacchiere, quello già è bello. Io e qua ci conosciamo, il mio vicino, ormai sono come fratelli, siamo sempre insieme. Io l'unica mia preoccupazione è che Filippo non uscisse quando sta piovendo, invece quando deve uscire si mette nella porta, piovendo no, le apre la porta, esce, fa bisogno e poi rientra, capito? È chiaro che lo devi asciugare, pulire le zampe, eccetera, però è indipendente, ormai è indipendente, ormai è il suo regno, non viene da là, esce, sta in giro, gira anche dietro la casa, torna indietro, sempre tutto recintato, tutto chiuso, non è che esce fuori, però è molto dipendente e questo mi lusinga tantissimo, perché non avevo più gana di stare ogni santo giorno a prendere freddo e caldo, soprattutto all'ora di punta, all'una, poi se già ce l'hai il cane lo sai come funziona, no? Quindi basta, adesso anche lui è sistemato, pensavo di poterlo praticamente esonerare dalla casa, farle proprio la casa sua in questa che non è finita, metterlo lì, stare per i fatti suoi, eccetera, ma non ci sta. Ho provato, l'ho messo lì, ho chiuso la porta, ho lasciato la luce accesa e ho dovuto cambiare la porta, perché tra i graffi e i morsi che le tirava perché volevo uscire, mi ha fasciato due traiani. Ho voluto cambiare anche la porta, allora me lo tengo dentro casa, perché lui era abituato così. No, oramai è abituato in casa, non c'è verso. Vabbè, almeno il guinzaglio se l'ha dimenticato adesso. Non ha più né guinzaglio né collare, proprio per i fatti suoi. C'è una nell'erba, perché quando era bagnata si sporcava tutto nel prato, allora gli ho fatto un finto, cioè un fabbrico, mi ho preso un quadrato un po' grande di finto erba, no? Quella plastificata, e lui va lì tutti i santi giorni, stamattina tutto santa mattina coricato lì, bello e fraginato in questo pezzo di suo habitat. Ogni tanto quando c'era molto caldo si andava sotto la veranda e poi ripartiva, poi entrava a bere e poi ripartiva, dopo mangiava uscì, adesso è già addormentato, si era stancato e si è già addormentato. E almeno lì si distrae, e con gli altri cani d'accordo va? Sì, c'è il mio vicino che ce ne ha due rompipalle, che sono due Yorkshire, però non li ha mai portati a casa, la verità. Si vedono uno da un po' giorno, uno dall'altro, dai cancelli, capito? Però non li ha mai portati qua, non li ha mai portati. Lui è pazzo per questo signore, il mio vicino è pazzo. Pazzo dal primo giorno che l'ha visto, non so perché. È pazzo, se tu vai a toccare a Nino, ti sei culinato. È pazzo perché lo coccola molto, le dà da mangiare, capito, le vuole un sacco di bene, un bel, quindi lui come lo vede piange, se io vado per dire, cara vieni che ti devo andare, passiamo dal cancello, esco fuori dal cancello, e Nino non entra, si buone a Pinino, proprio vuole che entri per salutarlo, allora Nino entra, lo saluta e poi se ne va. Ehi, no, le feste li stava di fare, non è che piange, le fa le feste e lo fa quando vogliono molto bene una persona, fanno così. Anche il mio lo fa, per dire, quando io arrivo a casa, c'è così come un tavolo, mi faccio i visi, magari mi sento già a prendere il pane, ritorno e comincia. Io, beh, ma non ti sei padrone già. Il padrone, ma questa era una persona strana che non aveva mai visto. Io dal primo giorno dal primo giorno, perché ho portato a lui proprio mentre stavamo traslocando, lui rimaneva qua, quindi non me lo controllava, evidentemente non fa più.